Perfetto giorno di Simone Spezia. Catalogna, Puigdemont prova ancora a prendere tempo e chiede 2 mesi. Madrid solo fino a giovedì. L'uragano Felia si sta per abbattere sulle coste irlandesi, ma i venti spingono gli incendi. 27 vittime in Portogallo. Manovra, c'è anche l'asta per le frequenze 5G, confermati gli sgravi per i giovani, bonus fiscale per la manutenzione di terrazzi e giardini. Elezioni in Sicilia, Di Maio chiede agli osservatori internazionali rischio brogli e voto di scambio secondo i 5 Stelle. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e siamo sempre in diretta sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Effetto Giorno. Dall'altra parte del vetro oggi Laura Faggini in assistenza in redazione, Paolo Corleoni in regia. Veniamo alle notizie in apertura che arrivano dalla Catalogna. Oggi appunto arrivava la scadenza per il governo catalano, avrebbe dovuto dire nella giornata di oggi che cosa intende fare, si dichiarare l'indipendenza oppure no. Ebbene, il tentativo è quello ancora di prendere tempo, a quanto pare. Mario Magarò in diretta da Barcellona, buongiorno Mario. Ciao Simone, buongiorno da Barcellona. Oggi si è aperta effettivamente la settimana degli ultimatum, se così la possiamo definire. Perché oggi alle 10 di mattina è scaduto il primo dei 2 ultimatum concessi dal governo spagnolo al presidente catalano Puigdemont per confermare se martedì scorso, intervenendo al Parlamento catalano, aveva dichiarato o meno l'indipendenza della Catalogna. Puigdemont in sostanza non ha risposto, ha inviato una lettera, un documento di 4 pagine, intorno alle 8:30 di questa mattina, al governo spagnolo chiedendo 2 mesi ulteriori di tempo per dialogare. Ha invitato nuovamente le istituzioni centrali ad aprire un dialogo, chiedendo urgentemente un incontro col premier spagnolo Mariano Rajoy. Non si è fatta attendere, più tardi la risposta del governo centrale è intervenuta in conferenza stampa Soraya Sanz de Santa Maria, numero 2 del governo spagnolo, che ha detto chiaramente che la risposta di Puigdemont è una non risposta, non ha assolutamente atteso la domanda rivolta chiaramente dal governo spagnolo, e ha ribadito che c'è una nuova deadline che scadrà giovedì prossimo alle 10 di mattina, entro la quale il presidente catalano Puigdemont dovrà dichiarare sì o no riguardo all'indipendenza della Catalogna. Ove mai la risposta fosse un no o fosse una non risposta come quella di stamattina, sarà inevitabile l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione da parte del governo spagnolo. Alle parole di Soraya Sáenz de Santa Maria ha poi fatto seguito una lettera scritta da Mariano Rajoy a Puigdemont, dove in sostanza ha ribadito le stesse parole del suo vicepresidente, e ribadendo insomma che tutta la responsabilità ricadrebbe su Puigdemont in caso di un'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione. Io intanto ti ringrazio, grazie a Mario Magarò in diretta da Barcellona. Dunque bisognerà ancora attendere e vedere che cosa succede nelle prossime ore, mentre invece bisognerà attendere ancora un po' per avere i risultati definitivi, però la tendenza è chiara per quanto riguarda l'Austria. Hanno vinto i popolari guidati da Kurz e avanza con forza l'ultradestra. Vienna va a destra. Il Partito Popolare di Sebastian Kurz ha ottenuto, secondo risultati non ancora definitivi, il 31,4% dei voti alle elezioni politiche di ieri in Austria. Per il secondo posto si profila un testa a testa tra i socialdemocratici del cancelliere uscente Christian Kern e l'estrema destra di Heinz Christian Strache. I primi sono al 26,7%, i secondi al 27,4%. I verdi sono crollati di 9 punti percentuali e sono al momento sotto la soglia del 4%. Se venisse confermato questo risultato, resterebbero per la prima volta dal 1986 fuori dal Parlamento. L'affluenza alle urne è stata superiore alle attese e superiore alle precedenti politiche. Si è attestata intorno all'80%. Per i risultati definitivi bisognerà attendere giovedì con i dati relativi al voto per corrispondenza. Intanto il giovane Sebastian Kurz si appresta a diventare il più giovane capo del governo in Europa, ma non potrà governare da solo, dovrà allearsi o con i socialdemocratici o, cosa più probabile, con l'estrema destra di Strachen, con il quale negli ultimi mesi ha mostrato più affinità. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'analisi dell'inviato del Sole 24 Ore. Commentando a caldo con i giornalisti poco dopo i risultati elettorali austriaci, il leader euroscettico Heinz Christian Strache ha detto con un sorriso: una cosa è chiara, quasi il 60% degli austriaci ha votato per il programma della FPÖ, cioè della destra estrema. Certo, il vincitore è il giovane popolare Sebastian Kurz, che ha spostato a destra con una campagna elettorale all'insegna ossessiva della tolleranza zero sui migranti clandestini e la lotta alla minaccia islamica. Kurz vuole anche la fine dei negoziati di adesione della Turchia con la UE. Una mossa tattica per evitare che la destra populista di Strache vincesse le elezioni, visto che fino a pochi mesi fa era in testa nei sondaggi? Possibile, ma ora è giunto il momento della verità. Se il giovane Aitante Kurz, la novità del laboratorio asburgico, non è il presidente francese Macron, visto il suo tiepido europeismo, rischia di essere un po' troppo simile sui temi dell'immigrazione all'ungherese Viktor Orban e troppo distante dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Nel nuovo governo austriaco, Kurz dovrà garantire che i toni della campagna elettorale sono finiti e che riuscirà a tenere a bada i suoi ingombranti alleati. Altrimenti ci sarà a breve un nuovo problema nel cuore dell'Europa. Vittorio Darolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vienna. Le forze governative irachene hanno preso il controllo dell'aeroporto internazionale di Kirkuk, secondo quanto riferito dalle TV panarabe Al Arabiya e Sky News Arabia. Le fonti citano fonti militari irachene, mentre i media curdo iracheni non confermano al momento e non smentiscono. Veniamo alle cronache dall'uragano Ophelia. Sorprese o imprigionate dalle fiamme, 27 persone sono morte in Portogallo, dove solo ieri si sono registrati più di 500 incendi, alimentati dalle alte temperature e dai forti venti provocati dal passaggio dell'uragano Ophelia. Diversi feriti, tra cui molti vigili del fuoco, il cui lavoro nelle prossime ore dovrebbe essere alleggerito dalla pioggia, il cui arrivo nelle zone colpite è previsto entro oggi. 4 morti per il fuoco anche in Spagna e in Galizia. Ora è l'Irlanda a dover affrontare Ophelia, la tempesta tropicale divenuta uragano di categoria 3 nel suo cammino ritroso attraverso l'Oceano Atlantico in direzione dell'Europa. Il Met Office, l'ufficio meteorologico britannico, ha alzato il livello di allerta d'arancione per l'Irlanda del Nord, ventilando una minaccia potenziale non solo a cose ed edifici, ma anche alla vita delle persone. L'uragano ha iniziato a colpire con forti raffiche di vento fino a 130 km orari le coste occidentali dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord e nelle prossime ore si sposterà verso est, arrivando anche in Gran Bretagna, dove tuttavia lo stato di allerta al momento è di color giallo, meno severo. I media locali parlano della peggior tempesta che si sia abbattuta sulle isole britanniche negli ultimi 50 anni. Mobilitato l'esercito irlandese, l'isola è in deadlock, con scuole chiuse e servizi di trasporto dai traghetti e tram di Dublino sospesi in anticipo rispetto al previsto. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In attesa degli esiti della riunione di governo sulla manovra, continuano a filtrare dettagli, dunque facciamo un punto di giornata tra questa e ovviamente il decreto fiscale già approvato. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Riunione dunque iniziata da poco più di mezz'ora. Il governo svelerà dunque le carte sull'ultima manovra della legislatura, approvando la legge di bilancio nei tempi chiesti da Bruxelles. Intervento quello di Palazzo Chigi, lo ricordavi, da studio che va visto aggregando la manovra al decreto fiscale approvato lo scorso venerdì. Tutto ruota attorno alle risorse da mettere in campo non solo per la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA, ma anche per finanziare gli aumenti contrattuali del pubblico impiego, le missioni all'estero, gli sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani, la lotta alla povertà e i fondi per imprese e investimenti. Da questa lista va forse depennato il capitolo pensioni, visto che questa mattina il ministro del lavoro Poletti ha comunicato ai sindacati che il tema previdenza non è nelle priorità. Resta anche la partita più politica per evitare sorprese in Parlamento, e tra i cantieri aperti vi è quello della revisione del super ticket da 10 euro per andare incontro alle richieste di MDP. L'ostacolo maggiore all'individuazione di nuove coperture resta comunque il quadro di finanza pubblica, che si muove in un sentiero stretto, come ripete da mesi il ministro Padoan. Ricordiamo che stasera il governo invierà la manovra a Bruxelles, mentre c'è tempo fino al 20 ottobre per consegnare il testo alle Camere. E da Montecitorio è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Andiamo su qualche dettaglio dei contenuti, almeno per come li conosciamo adesso. Il Consiglio dei Ministri sta esaminando una manovra da circa 20 miliardi, di cui oltre 15 da usare per disinnescare l'aumento dell'IVA dal 1 gennaio. Una misura, questa, prevista dalla clausola di salvaguardia che scatta se il governo non riesce a reperire le risorse necessarie per rispettare i vincoli di bilancio europei. Fra le misure annunciate con la manovra c'è la nuova decontribuzione fino al 50% per 3 anni sulle assunzioni dei giovani. Solo nel 2018 la soglia delle assunzioni incentivate sarà valida fino al compimento dei 35 anni. Gli stanziamenti per il prossimo anno ammontano a 338 milioni. Lo sgravio fiscale inoltre sarà innalzato al 100% per i giovani assunti al sud. La manovra dovrebbe anche confermare i superammortamenti per le imprese e prevedere un nuovo credito d'imposta al 50% per le spese in formazione digitale 4.0. Annunciata anche la stabilizzazione dell'ecobonus per i condomini. Per il 2018 ci dovrebbe essere uno sconto fiscale al 50% anziché al 65% per finestre o caldaie a condensazione. Fra le priorità indicate più volte dal governo, le misure per la lotta alla povertà, con il finanziamento del nuovo reddito di inclusione. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Veniamo alla legge elettorale. Si affilano le armi in vista dell'approvazione in Senato del Rosatellum bis, un passaggio che nelle intenzioni della maggioranza dovrà essere rapido e indolore. Domani la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama fisserà il calendario dei lavori. Prima il passaggio in commissione affari costituzionali, poi l'approdo in aula con il voto finale previsto per il 25-26 ottobre, probabilmente 3 voti di fiducia come già alla Camera. Obiettivo: approvare il provvedimento prima dell'arrivo della legge di bilancio in Senato e prima delle elezioni regionali siciliane per evitare che i risultati elettorali possono avere ripercussioni sul voto a Palazzo Madama, dove i numeri della maggioranza sono più risicati. Ma intanto si alza la tensione sulle elezioni siciliane. Il Movimento 5 Stelle chiede l'invio di osservatori dell'OSCE per monitorare il corretto svolgimento. La tornata sarebbe, a loro dire, a rischio di voto di scambio, dicono in una conferenza stampa congiunta il candidato Giancarlo Cancelleri e il leader pentastellato Luigi Di Maio. Chiediamo alla Commissione Antimafia di partorire l'elenco ufficiale degli impresentabili nelle liste per queste elezioni regionali. Noi lanciamo una forte denuncia, c'è un grande pericolo di condizionamento del voto, di mancanza di libertà di voto in Sicilia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prima di chiudere andiamo al calcio con un campionato che sembra decisamente migliore delle attese, quantomeno in termini di spettacolo e di quanto è combattuto. Ma che meraviglia questo derby milanese, 5 gol, emozioni a raffica, un centravanti perfetto, Icardi, che fa la differenza. Stupenda la Lazio che dopo la Supercoppa ribatte ancora la Juventus rifilando le 5 reti in 2 partite. E vogliamo parlare del Napoli, unica squadra a punteggio pieno con un gioco scintillante a prescindere dall'avversario che incontra. Bisogna cominciare a dirlo con energia, il campionato italiano non sarà ancora il più bello del mondo, ma diverte un sacco. Magari certe difese, come quella del Milan, sono ballerine, ma tutto il resto non è noia, ma uno spettacolo che deve far riflettere sui valori del nostro calcio. Perfino le squadre di mezza classifica, Bologna, Sampdoria, Genoa, rialzano la testa sia in qualità sia in risultati. L'unica nota stonata è il grigio affanno della nazionale. Ma forse, come ha detto l'allenatore del Napoli, il vero calcio italiano è quello giocato dalle squadre di club e non dalla nazionale, dove i nostri big si trascinano sempre più stancamente. Insomma, anche per la nazionale, in un calcio sempre più aperto a oriundi e naturalizzati, è tempo di rivedere qualcosa. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Milano apre una grande mostra di Toulouse-Lautrec a Palazzo Reale, 250 opere esposte con un titolo, Il mondo fuggevole, che la curatrice Claudia Zevi spiega così ad Adriana Fracchia. Ci è piaciuto anche l'idea che il termine fuggevole, oltre appunto ad avere un riferimento colto, avesse anche un riferimento effettivo. Il mondo dello spettacolo, il mondo del teatro, il mondo delle case chiuse dove le ragazze invecchiano velocemente. Lui guarda con un realismo che non ha bisogno di essere naturalista, con un realismo sintetico, se così si può dire, a un mondo che è in movimento e si sta cambiando e ha la percezione, come pochi artisti del suo momento, di quello che stava succedendo, di come il mondo stava veramente cambiando. Lui muore nel 1901, nel settembre, e il 1900 è l'anno della grande esposizione universale di Parigi. Si costruisce la Tour Eiffel. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro d'Italia e lo inizieremo dai confini con l'Austria, dalla provincia di Bolzano, per sentire un po' qual è l'umore da quelle parti a fronte di quello che è successo con il voto austriaco di ieri. Andremo a Torino per questo terribile fatto di cronaca del quale forse avrete letto da qualche parte, un ambulante abusivo che all'interno di un mercato, che a quanto pare era un vero e proprio succo, un vero e proprio caos, ha ucciso una persona solamente perché voleva passare tra due bancarelle, e ci porta a chiederci proprio il funzionamento, a interrogarci proprio sul funzionamento di questi mercati. E poi a Palermo, 240 minori arrivati nelle ultime ore, sbarcati nelle ultime ore a Palermo, è un problema di gestione che si fa forte. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di Catalogna, delle elezioni in Austria, dell'uragano Ofelia che si sta per abbattere sulle coste irlandesi, lungamente della manovra e anche di politica, della legge elettorale, della richiesta dei 5 Stelle di osservatori OSCE per le elezioni in Sicilia, e poi anche di calcio e di arte. Adesso iniziamo il nostro giro d'Italia e andiamo però ad un passo dall'Austria. Andiamo nella provincia autonoma di Bolzano, siamo in linea con il presidente Arno Compacer. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, Compacer. Buongiorno a voi. Che effetto le ha fatto questo voto austriaco? Che effetto ha fatto a voi? Beh, io credo che il risultato sia stato anche scontato, lo si sapeva anche dai sondaggi, che Sebastian Kurz, con il suo nuovo Partito Popolare Austriaco, poteva vincere queste elezioni e che ci fosse anche alla fine questo voto, diciamo, per la destra radicale, perché tutta la campagna elettorale era improntata proprio sulla tematica della migrazione e le preoccupazioni collegate dai cittadini. Sì, e questo lo abbiamo visto. Dall'altra parte c'è un'attenzione che probabilmente si rivolge proprio ai nostri confini, con Pacer, no? Beh, ovviamente anche per quanto riguarda il Brennero, i toni durante la campagna elettorale sono stati abbastanza duri e anche aspri, però io credo che questo adesso tornerà anche in un attimino in modi più moderati, perché innanzitutto perché la situazione sul Brennero è assolutamente tranquilla, non ci sono transiti. Perché poi c'è questo, mi scusi Compacer, la interrompo, sì. Perché poi di questo noi con lei abbiamo già parlato, oggi abbiamo visto più qualche volte, giornale, esatto, abbiamo visto qualche giornale titolare su questa questione: Viminale in allerta perché se potrebbe arrivare una stretta sul Brennero. In realtà la stretta sul Brennero c'è già e da parecchio tempo. Insomma, non è che passi un granché da quel confine, no? Beh, i controlli ci sono da tempo in base a quello che sono i regolamenti europei, diciamo, gli accordi di Schengen e altro, per quelli ci sono e funzionano in una ottima collaborazione anche tra le forze italiane e quelle austriache, per quello non c'è bisogno di una misura di carattere straordinario, questo lo confermano tutti i dati. Appunto proprio dal punto di vista dei numeri, insomma, da questo punto di vista non ci sono problemi, quindi non avete timori di un'eventuale nuova stretta, Compacer, anche perché non è possibile? No, nessun timore di questo tipo, anche perché poi gli arrivi nel Mediterraneo sono adesso crollati e per quello, diciamo, un attimino c'è anche una minore attenzione in Austria. È stato enfatizzato questo tema durante la campagna elettorale, però adesso si passerà di nuovo anche in Austria a parlare di altro, della politica fiscale per l'occupazione e quant'altro. L'ultima domanda che le voglio fare, anzi, prima mi faccio rimanere un po' sui temi di attualità di giornata. E mi interessa sapere una lettura da voi, dal vostro punto di vista, della vicenda catalana. Ha visto che cosa sta succedendo in queste ore? No, Puigdemont ha di fatto sostanzialmente fatto una marcia indietro, o quantomeno chiesto ulteriore tempo a Madrid. Insomma, la mia idea è che una lettura da parte di, appunto, della provincia autonoma di Bolzano, di una regione autonoma nel quale c'è una forte minoranza linguistica, possa essere utile. Come la leggete la vicenda catalana voi? Bisogna dire che anche noi crediamo nel diritto all'autodeterminazione dei popoli, solo che non bisogna confonderlo con un diritto alla secessione. Questo dal diritto internazionale non è riconosciuto. Cioè, noi abbiamo la nostra autonomia basata su accordi internazionali e questo già ci differenzia dalla Catalogna, perché lì non ci sono accordi internazionali sulla quale si possa basare questa autonomia e noi abbiamo sempre cercato la via della trattativa, con successo, diciamo, abbiamo un'autonomia che funziona e soprattutto dà un contributo anche al sistema paese, anche questo va sottolineato. Mentre in Catalogna, purtroppo nel 2010 la Corte Costituzionale ha affondato questo accordo che c'era su un ampliamento dell'autonomia e lì si sono fermate le trattative, ci sono le colpe anche a Madrid e questo ha portato adesso anche a questo referendum e tutti adesso si trovano in vicolo cieco da cui adesso non sanno più come uscirne. Nell'uno o nell'altro. L'ultima domanda che voglio fare invece riguarda più specificatamente la vostra amministrazione e quello che succede nella vostra provincia autonoma. Nei giorni scorsi sono stati diffusi dei dati, mi sembra piuttosto preoccupanti, sul numero di bambini che non sono vaccinati, in particolare nella minoranza di lingua tedesca esattamente. Addirittura c'era qualche dato che parlava di un migliaio di persone che si rifiutano di vaccinare i figli. Sono dati pesanti e che non hanno riscontro nel resto d'Italia. È proprio così, qui c'è una sensibilità maggiore, forse anche dovuta all'influenza del mondo germanico, dove c'è una posizione un po' più critica da parte dei cittadini nei confronti, diciamo, del tema vaccinazioni. Questo è stato poi anche aiutato da qualche partito qui locale, addirittura, diciamo, chiedendo ai genitori di non portare la documentazione richiesta alle microstrutture e agli asili nidi. Adesso questi numeri però si sono ridotti, abbiamo reagito con una comunicazione anche molto chiara, perché qui bisogna soprattutto anche credere a quello che dicono gli scienziati, che dice la medicina. Noi oggi abbiamo un'aspettativa di vita e una mortalità, diciamo, di bambini così bassa proprio perché abbiamo sempre seguito i consigli diciamo della scienza e della medicina, e per questo anche in questo caso non dovremmo discutere se la Terra è una sfera o una piattaforma come spesso avviene anche sui media e perciò affidiamo a questo che ci viene spiegato anche, diciamo, con fondamento scientifico, e cerchiamo di convincere soprattutto le persone adesso a seguire questi consigli. E i numeri, diciamo, di chi non ha adesso portato la documentazione necessaria si è molto ridotto nelle ultime settimane. Bene, grazie Arno Compace, presidente della provincia autonoma di Bolzano, e noi ci spostiamo a Torino, dove ieri Maurizio Gugliotta, un operaio, un ex operaio perché era senza lavoro, di Settimo Torinese, è stato ucciso dove? In un mercato che è un mercato del baratto, nel quale, oltre a persone che regolarmente si trovano là, ambulanti che regolarmente si trovano là, ci sono anche tantissimi abusivi. Il pretesto sarebbe stato il tentativo di passare tra due bancarelle che insieme erano troppo strette, cioè il passaggio era troppo stretto, ne è nato un diverbio, un litigio, e un ambulante abusivo, un uomo di 27 anni di origine nigeriana, ha tirato fuori il coltello e l'ha ucciso. Luca Deri, il presidente della settima circoscrizione di Torino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. E dove sono avvenuti i fatti? Qua qualcuno denuncia una situazione che è una situazione, come dire, che è piuttosto estesa. Oggi il quotidiano torinese La Stampa ricorda una serie di situazioni critiche, tra cui Piazzale Cuoco a Milano, Via Turati a Genova, alcuni mercatini del rubato a Roma, che è abbastanza diffusa soprattutto in mercati di questo tipo, nei quali l'illegalità si mescola con la legalità, è difficilissimo far rispettare le regole. E poi, ora lasciamo stare il fatto che in questo caso sia avvenuto un omicidio, che è ovviamente un fatto estremo, ma dove la tensione evidentemente si respira. Com'è la Deri? Ma la situazione è sicuramente complicata e complessa. Noi abbiamo il mercato di baratto che si svolge al sabato in San Pietro in Vincoli e alla domenica in via Carcano. Circa 350-400 persone munite di autorizzazione, qualcheduna sicuramente no, vendono di tutto. L'amministrazione pentastellata ha cercato di trovare delle soluzioni, ma come noi avevamo già detto, perché è un'esperienza che va avanti ormai da una dozzina d'anni, quel mercato lì va completamente rivisto nei numeri. Ci sono troppe persone. Quanta gente c'è in questo mercato? Calcolate che gli stalli regolari sono 360. Poi c'è tutta una serie di corollario, di supporto. Con almeno un paio di persone per ogni stallo, insomma, vuol dire per ogni piazzola, per così dire. E quindi sono già 700 persone da controllare. E diventa difficile, perché dovresti avere poi forse l'ordine in numero adeguato. E quindi questo diventa complicato. Il nuovo regolamento è molto più draconiano di quello precedente su alcuni aspetti, ma non basta fare i regolamenti draconiani se poi non hai le forze per farlo rispettare. Quindi ben ha fatto, se non vado errato, il prefetto a sospenderlo. Noi chiedevamo però che la sospensione riguardasse tutte e due le aree e non soltanto una, perché è naturale che il problema che è successo ieri, il fatto drammatico che è successo ieri, potrebbe, speriamo di no, sia ben chiaro, ricapitare, perché le condizioni sono le medesime anche sull'altra area, che è San Pietro in Vincoli. Sì, tra l'altro mi sembra di capire, un mercato dove viene denunciato dal territorio, non è che c'è solamente, come spesso accade, roba usata, roba recuperata, appunto perché è un mercatino del baratto, ma spesso c'è roba rubata. Dalle immagini che abbiamo c'è di tutto. Televisori che non si capisce bene se sono stati recuperati in qualche cassonetto o sono stati recuperati in qualche altro contesto. Recuperati in un cassonetto. Dai, su. Infatti la mia era ironica, naturalmente, e quindi non si capisce, ci sono dei computer, ci sono dei prodotti confezionati che quindi è difficilmente che siano stati usati, e le forze dell'ordine fanno sequestri, ma il problema è sempre lo stesso: se hai 700 persone da controllare è molto più complicato rispetto ad averne magari 250 o 300, e quindi quello è il problema, il numero enorme di persone che non si riesce a controllare. La ringrazio, grazie Luca Deri, presidente della settima circoscrizione di Torino, e rifiuto l'interpretazione che dà un ascoltatore, dice non è un problema di funzionamento, no, il problema sono gli immigrati che non devono essere qui, e questo era qua con un regolare permesso di soggiorno, era regolare qua in Italia e poi in realtà faceva un'attività abusiva, che era quella di vendere in questo mercatino abusivamente. Il problema sarà forse l'abusivo, forse il problema che uno ha un coltello e ammazza un'altra persona per un problema di passaggio in mezzo a due bancarelle, a prescindere dalla nazionalità. Comunque ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, come sempre ci ritroviamo subito dopo e andremo rapidamente a Palermo per parlare appunto di immigrazione. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli per la manovra: c'è anche l'asta per le frequenze 5G, confermati gli sgravi per i giovani, bonus fiscale per la manutenzione di terrazzi e giardini. In Catalogna Puigdemont prova ancora a prendere tempo e chiede 2 mesi, ma Madrid gliene dà solamente fino a giovedì. L'uragano Feria si sta per abbattere sulle coste irlandesi, ma i venti spingono gli incendi, 27 morti in Portogallo. In Austria, netta vittoria dei popolari di Kurz, avanza l'ultradestra. Ed elezioni in Sicilia, Di Maio chiede agli osservatori internazionali la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Maledetto lunedì, che è la trasmissione un po' più corta, non abbiamo il tempo di andare a Palermo dall'assessore dei servizi sociali per parlare di questi grandi sbarchi di migranti, questi 240 minori che devono ospitare. Dunque ci fermiamo, andiamo a sentire America 24, Mario Platero, e ci risentiamo alla fine per i saluti.